Nel cuore della metropoli ibernica. Davanti alla colonna di Nelson, i tram rallentavano, giravano sugli scambi, voltavano i trolley, partivano per Blackrock, Kingstown e Dalkey, Clonskay, Rathgar e Terenure, Palmerston Park e Upper Rathmines, Sandy Mount Green, Rathmines, Ringsend e la torre di Sandy Mount, Harold's Cross. L'ispettore delle società tranviarie riunite di Dublino li faceva partire berciando rauco. Hrothgar e Terenure! Forza per Sandy Mount Green! A destra e a sinistra, parallele, sferraglianti, scampanellanti, una vettura a due piani e una a un piano partivano dal capolinea, svoltavano sulla linea di corsa, strisciavano parallele. Partenza Palmerston Park! Il Corriere della Corona. Sotto il portico della posta centrale, lustrascarpe gridavano e lucidavano. Stazionate in North Prince Street, i regi furgoni postali vermigli, recanti sui fianchi le iniziali regali ER, ricevevano scagliati con fragore sacchi di lettere, cartoline, biglietti postali, pacchi, assicurate e con risposta pagata, con destinazione locale, provinciale, per il territorio britannico e l'oltremare. I signori della stampa. Facchini in scarponi rotolavano con cupi tonfi barili fuori dei magazzini Prince e li ammonticchiavano sul carro della birreria. Sul carro della birreria si ammonticchiavano con cupi tonfi barili rotolati dai facchini in scarponi fuori dei magazzini Prince. Ecco qua, disse Red Murray. Alexander Keyes. Le dispiacerebbe tagliarlo, disse Mr. Bloom, e lo porterò all'ufficio del Telegraph. La porta dell'ufficio di Rutledge cigolò di nuovo. Davy Stevens, minuscolo nella sua gran gabbana, i ricciolini coronati da un cappelluccio di feltro, passò con un rotolo di carte sotto la gabbana, Corriere del Re. Le lunghe forbici di Red Murray tagliaron via l'inserzione dal giornale con quattro colpi netti, forbici e colla. Passerò io in tipografia, disse Mr. Bloom, prendendo il ritaglio. Naturalmente, se vuole un trafiletto, disse serio Red Murray, penna infilata dietro l'orecchio. Possiamo farglielo, Bene, disse con un cenno Mr. Bloom, me lo lavorerò io. Noi. Il signor William Bryden, di Oaklands, Sandy Mount. Red Murray toccò il braccio di Mr. Bloom con le forbici e mormorò. Bryden. Mr. Bloom si voltò e vide il portiere in livrea togliersi il berretto con le iniziali, mentre una figura imponente entrava fra i tabelloni del Weekly Freeman and National Press e del Freeman's Journal and National Press, cupi tonfi dei barili di Guinness. Passò imponente su per la scala pilotato da un ombrello, un volto solenne incorniciato dalla barba. Il dorso di tessuto pettinato ascendeva scalino per scalino. Dorso. Ha tutto il cervello nella nuca, dice Simon Dedalus. Cordoni di carne sul retro, pieghe grasse del collo, grasso, collo, grasso, collo. Non le sembra che di volto assomigli al Salvatore? Mormorò Red Murray. La porta dell'ufficio di Rutledge mormorava. Fanno sempre una porta di fronte all'altra perché il vento. Entrata, uscita. Il Salvatore, volto ovale incorniciato dalla barba, parlava nel buio del crepuscolo. Maria, Marta. Pilotato da una spada d'ombrello verso il proscenio. Mario, il tenore. Piuttosto a Mario, disse Mr. Bloom. Sì, convenne Red Murray. Del resto. Si diceva che Mario fosse tutto il ritratto del Salvatore. Gesù, Mario con le gote imbellettate, giustacuore e gambucce di grillo, la man sul cuore, nella Marta. Marta, Marta, tu sparisti e il mio cor col tuo n'andò. Il pastorale e la penna. Sua Grazia ha telefonato 2 volte stamattina, disse gravemente Red Murray. Videro sparire ginocchia, gambe, scarpe, collo. Un fattorino del telegrafo entrò svelto, gettò una busta sul banco e andò via di carriera con una parola. Freeman. Mr. Bloom disse lentamente. Bene, è uno dei nostri salvatori anche lui. Un mite sorriso lo accompagnò mentre sollevava il levatoio del banco, mentre passava per la porta secondaria e lungo le scale calde, oscure, e il corridoio lungo gli assiti ora echeggianti. Ma salverà la tiratura del giornale. Cupi tonfi, cupi tonfi. Spinse la porta a vento a vetri ed entrò, passando sopra la carta da imballaggio sparsa sull'impiantito. Attraverso un corridoio di rotative sferraglianti si avviò allo sgabuzzino di Nannetti. È con sincero rammarico che annunciamo la scomparsa di un eminente cittadino dublinese. C'è anche Heinz, resoconto del funerale probabilmente. Tonfi, cupi tonfi. Stamattina i resti mortali del defunto Patrick Dignam. Macchine. Ti riducono in briciole un uomo se lo afferrano. Oggi governano il mondo. Anche i suoi macchinari lavorano a tutta forza, come queste, sfuggite di mano, in fermento. Lavorano a tutta forza, spinte a tutta forza. E quel vecchio sorcio grigio che spinge per entrare. Come si produce un grande organo quotidiano? Mr. Bloom si fermò dietro la figura mingherlina del proto, fissando la crapa lucente. Strano che non abbia mai visto la sua vera patria. Irlanda, patria mia. Deputato di College Green. Ha sfruttato fino alla nausea quella campagna per l'onesto lavoratore. Un settimanale si regge sulle inserzioni pubblicitarie e sulle rubriche accessorie e non sulle notizie stantie della Gazzetta Ufficiale. La regina Anna è morta. Pubblicato con l'autorizzazione delle autorità. L'anno 1000 e tenuta sita nel circondario di Rosnellis, baronia di Teignage. A tutti gli interessati, statistica conforme alle disposizioni di legge relativa al numero di mule e cavalline esportate da Blaney. Taccuino della natura. Vignette umoristiche. Pat e Bull a puntate settimanali di Phil Blake. La pagina di zio Tobia per i più piccini. La piccola posta dei campagnoli. Egregio signor direttore, qual è un buon rimedio per la flatulenza? Mi piacerebbe quel lavoro lì. Imparare un sacco di cose insegnando agli altri. La nota personale. STF. Soprattutto tante fotografie. Bagnanti formose su spiagge dorate. Il più grande pallone del mondo. Celebrato il doppio matrimonio di due sorelle. I due sposi che si ridono in faccia di cuore. E poi Cuprani, il tipografo, più irlandese degli irlandesi. Le macchine rumoreggiavano in tempo di tre quarti. Cupi tonfi, cupi tonfi, cupi tonfi. E se gli prendesse un colpo a un tratto e nessuno sapesse fermarle, seguiterebbero a sferragliare lo stesso, a stampare, stampare di qua e di là, a diritto e a rovescio, tutto un pasticcio. Ci vogliono nervi saldi. Bene, lo metta nell'edizione serale, consigliere, disse Heinz. Presto lo chiameranno signor sindaco. Dicono che Long John lo sostiene. Il proto, senza rispondere, scribacchiò da stampare sull'angolo del foglio e fece un cenno a un compositore. Porse il foglio in silenzio sopra lo schermo di vetro sporco. Bene, grazie, disse Heinz sulle mosse per andarsene. Mr. Bloom gli sbarrava la strada. Se vuol riscuotere, il cassiere sta per andare a colazione, disse accennando dietro a sé col pollice. E lei? Chiese Heinz. Disse Mr. Bloom. Se si sbriga, lo prende al volo. Grazie, vecchio mio, disse Heinz. Tenterò anch'io. Si affrettò ansioso verso l'ufficio del Freeman's Journal. 3 scellini gli ho prestati da Megar. 3 settimane. Terza allusione che gli faccio. Vediamo il piazzista al lavoro. Mr. Bloom mise il suo ritaglio sulla scrivania di Nannetti. Mi scusi, consigliere, disse. Questa inserzione, vede, Kiss, si ricorda? Mister Nannetti fissò il ritaglio un po' e annuì con il capo. Lo vorrebbe per luglio, disse Mister Bloom. Il proto avvicinò la matita al foglio. Un attimo, disse Mister Bloom. Lo vuol cambiare. Kiss, vede, ci vuole due chiavi in cima. Che fracasso stanno facendo? Non sente. Nannan, nervi d'acciaio. Forse capisce quel che io. Il proto si voltò ad ascoltare pazientemente e, alzando il gomito, cominciò a grattare lentamente sotto l'ascella della sua giacca di alpaca. Così, disse Mister Bloom, incrociando gli indici in cima al ritaglio. Prima facciamogli capire questo. Mister Bloom, alzando lo sguardo di sbieco dalla croce che aveva fatta, vide il viso giallastro del proto. Mi pare che abbia un po' di terizia. E laggiù i rotoli obbedienti che alimentavano vaste tele cartacee. Sferraglia, sferraglia, chilometri di carta srotolata. E poi doveva finire? Oh, a incartare carne, pacchi, vari usi, mille una cosa. Infilando abilmente le parole nelle pause dello sferragliamento, disegnò svelto sul legno tagliuzzato. Ditta Kiss. Così, guardi. Due chiavi incrociate qui, un cerchio, poi qui il nome, Alexander Keys, tè, vino, alcolici, eccetera. Meglio non insegnargli il mestiere. Lei lo sa da sé, consigliere, quello che vuole. Poi intorno, sopra, in neretto, la casa delle chiavi, vede? Non le sembra una buona idea? Il proto spostò la mano che grattava verso le costole inferiori e se le grattò tranquillamente. L'idea, disse Mister Bloom, è la casa delle chiavi, capisce, consigliere? Il Parlamento dell'isola di Man, allusione al governo autonomo. Per i turisti, vede, che vengono dall'isola di Man, dà nell'occhio, capisce? Può farlo? Forse potrei chiedergli la pronuncia di quel voglio. Ma poi, se non lo sapesse, sarebbe un metterlo in imbarazzo. Meglio di no. Possiamo farlo, disse il proto. Ha il disegno? Posso procurarmelo, disse Mister Bloom. Era in un giornale di Kilkenny. Ha una filiale anche lì. Faccio una scappata e glielo chiedo. Dunque, fatelo. E anche un trafiletto per richiamare l'attenzione. Sapete, al modo solito, spaccio autorizzato di alcolici di alta classe, necessità da tempo sentita, eccetera. Il proto rifletté un momento. Possiamo farlo, disse. Ma deve rinnovare per 3 mesi. Un compositore gli portò una bozza in colonna tutta floscia. Cominciò a rivederla in silenzio. Mister Bloom gli rimase accanto in piedi, ascoltando i forti tonfi dei macchinari, osservando i compositori silenziosi armeggianti con le cassette dei caratteri. Ortografico. Vuole essere sicuro dell'ortografia. Febbre delle bozze. Martin Cunningham si è dimenticato di proporci il solito problemino d'ortografia stamani. È divertente vedere l'impar una R e giabile imbara 1 o 2 R, 2 Z o di un ambulante imbambolato che calibra sdrucciolo lungo il cammino 2 M, l'imponente camino del crematorio del cimitero. Sciocco, no? Cimitero. Ce lo ficca dentro per via del camino del crematorio. Naturalmente. Avrei potuto dirlo quando si è cacciato in testa il cappello. Grazie. Avrei dovuto dire qualcosa sui vecchi cappelli, qualcosa del genere. No, avrei potuto dire sembra nuovo ora. E poi vedere che faccia faceva. Slut! Il cilindro inferiore della prima macchina spinse avanti la tavola mobile con slut, la prima infornata dei fogli piegati a risma. Slut! Quasi umano il modo in cui fa slut per richiamare l'attenzione. Fan tutto quel che possono per parlare. E quella porta, anche lei, slut, cigola, chiede d'essere chiusa. Tutte le cose parlano a loro modo. Slut. Collaboratore occasionale, un noto ecclesiastico. Il proto porse a un tratto la bozza dicendo: Aspetti, dov'è la lettera dell'arcivescovo? Va riportata sul telegraph. Dov'è, come si chiama? Guardò all'intorno le macchine fragorose che non davano risposta. Monks, signore? Chiese una voce dal bancone dei caratteri. Sì, dov'è Monks? Monks! Mister Bloom prese il suo ritaglio. Ora d'andarsene. Allora mi procurerò il disegno, Mister Nannetti, disse, e e son sicuro che lo sistemerà bene. Monks! Eccomi, signore. Rinnovo di 3 mesi. Ci vorrà parecchio fiato. Comunque tentar non nuoce. Battiamo sull'agosto. Buona idea. Mese del concorso ippico. Ballsbridge. Vengono i turisti per il concorso. Un capo cronista. Attraversò la stanza dei compositori passando un vecchio curvo, occhialuto, grembialuto. Il vecchio Monks, il capo cronista. Le cose più strane devono essergli passate tra le mani ai suoi tempi, avvisi mortuari, pubblicità di locali, discorsi, cause per divorzi, annegamenti. Ora non ne può più. Persona quadrata e seria, e direi con un gruzzoletto in banca. Moglie che sa lavare e far la cucina, figlia che lavora a macchina in salottino, Giovannina, la brutta, senza fole per la testa. Ed era la festa degli azimi. Sostò nel suo cammino per guardare un compositore distribuire scrupolosamente i caratteri. Prima legge all'incontrario. Lo fa alla svelta. Ci deve volere una bella pratica. Mangi d k cir tap. Il povero babbo, con il suo libro dell'Agadà che mi leggeva muovendo il dito all'incontrario. Pessah. L'anno prossimo a Gerusalemme. Dio mio. Oh mio Dio. E tutta quella lungaggine che ci trasse fuori d'Egitto e nella casa di servitù, alleluia. Shema Israel, Adonai Eloenu. No, questo è l'altro. Poi i 12 fratelli, i figli di Giacobbe. E poi l'agnello, e il gatto, e il cane, e il bastone, e l'acqua, e il macellaio. E poi l'angelo della morte uccide il macellaio. E questo uccide il bove, e il cane uccide il gatto. Sembra tutto un po' sciocco, finché non ne hai visto bene il fondo. Vuol dir giustizia, ma fatto sta che tutti si mangiano tra di loro. È la vita, dopo tutto. Come lo fa la svelta il lavoro? L'esercizio perfeziona. Sembra che veda con le dita. Mister Bloom uscì da quello sferraglio attraverso la galleria fin sul pianerottolo. Adesso devo prendere il tram e fare tutto il tragitto per poi magari trovare che non è in casa. Meglio telefonargli prima. Il numero? Sì, lo stesso della casa di Citron. 28 28 44. Solo una volta ancora quel sapone. Scese le scale. Chi diamine ha imbrattato tutti quei muri, quei fiammiferi? Sembra che l'abbiano fatto per scommessa. Sempre un odore pesante di grasso in quelle tipografie. Colla tiepida da Tom della porta accanto, quando c'ero io. Tirò fuori il fazzoletto per tamponarsi il naso. Citro limone? Ah, il sapone che ci ho messo! Lo perdi da quella tasca. Rimettendo a posto il fazzoletto, tirò fuori il sapone e lo ripose, abbottonandolo, nella tasca posteriore dei pantaloni. Che profumo usa tua moglie? Potrei ancora andare a casa. Tram, dimenticato qualcosa. Solo per dare un'occhiata, prima di vestirsi. No, qui, no. A un tratto uno scoppio di risa stridule venne dall'ufficio dell'Evening Telegraph. So chi è. Che c'è? Una capatina per telefonare. È Ned Lambert. Entrò pian piano.